questi istituti sono tutti interessati a un tipo di tematica, direi assolutamente nuova, perché molto si è detto della storia delle donne, poco o nulla si è ancora detto, credo, sulla storiografia al femminile, per così dire, insomma, ecco. E quindi con particolare interesse che credo questo seminario deve essere accolto da tutti noi, ecco. Non voglio in questi saluti fare discorsi generici. La Cecilia Nuvola qui presente mi ha intimato di non fare nessun discorso. Dov'è? Ah, ecco, perché ha paura che io dica cose che non stanno bene in questo, che mi conosce forse o crede di conoscermi, e quindi ha detto: ma lei si limiterà solo a dare i saluti, guai se entra in merito. Beh, in merito non entro, ecco, ma è difficile non fare almeno due minuti proprio in questo nostro avvio di riflessione sulla rivoluzione che è avvenuta anche nell'ambito degli studi storici negli ultimi decenni per la presenza delle donne. Dico questo perché io sono stato allievo per 10 anni e il mio apprendistato di storico credo che sia uno dei pochissimi di una storica, cioè la professoressa Gina Fasole, insomma, di cui io sono stato assistente dal 59 al 68, e quindi credo fosse un caso unico, credo, di cattedratica in Italia allora di materie storiche, forse in antichità qualcosa, no? C'era in antichità. Smentiremo domani. No, per l'età medievale moderna non mi pare che ci fossero in cattedra. No, non per storia. Ah no, io parlo di storia medievale moderna, insomma, ecco, c'era solo la professoressa Fasoli, ecco, proprio negli anni 50, ecco, che io sappia, non esistevano, ecco, poi si sono smentite. Ma come cattedra direi che qui la memoria orale credo vale anche questa, insomma, ecco. Mentre adesso ovviamente tra le allieve nella nuova generazione delle ventenni e dei trentenni la prevalenza femminile è netta e assoluta rispetto agli uomini, in dubbio, insomma, ecco, sia a Bologna che, direi, se non mi sbaglio, anche in modo più diffuso, ecco. Le discussioni su questo rischiano di trasformarsi anche in un chiacchiericcio di bar ed è lungi da me da volontà di far questo, ma credo che due ragionamenti possono essere seri, insomma, ecco. Uno, questa trasformazione, ecco, del mondo della ricerca in questi ultimi anni e per la presenza femminile come motivo di riflessione. Due, sulle ragioni che possono aver portato a questa trasformazione e quindi anche ai nuovi panorami di oggi, insomma. Certamente diciamo le interpretazioni sono due, insomma, ecco. O questa conquista graduale del mondo femminile anche all'interno della ricerca e della ricerca umanistica nel suo complesso, oppure l'interpretazione più maligna che il potere è andato via dall'università, come era andato via prima dalla scuola elementare, dalla scuola media inferiore, dalla scuola media superiore, e che quindi questo vuoto sia occupato progressivamente dalla presenza femminile. Comunque, ecco, direi che questo non ci interessa come storici, che dobbiamo essere abituati a non cercare la causa unica dei fenomeni, ma a vedere la complessità. Ecco. E nella complessità io credo che si possa dire questo, cioè che il vuoto che si era creato negli anni, nei decenni che hanno preceduto questi nostri ultimi anni, nell'ambito della cultura umanistica in particolare, per il venir meno di un humus di cultura che aveva, almeno in Italia, qui può essere utile anche un raffronto poi una base in, quella, in quegli ambienti cittadini che andavano dagli insegnanti al farmacista, al medico, all'avvocato, al prete erudito. Cioè c'era un insieme di humus su cui poi in fondo la ricerca, nonostante sia sempre dimostrata schizzinosa verso questo mondo, su cui la ricerca si è alimentata. Ecco, io direi che questo humus ormai di fatto è già costituito da questo universo femminile in gran parte, ecco, con la conseguenza che c'è un recupero, direi, estremamente importante di un certo respiro della ricerca storica che fino ad anni recenti si era sempre più atrofizzata nello specialismo della ricerca, in qualche modo nell'accademismo. Ecco, quindi ho finito, ecco, basta, non parlo di più. Ecco, volevo solo sottolineare che in ogni caso, ecco, io sento moltissimo che negli anni che verranno, se vogliamo dire anche retoricamente, nel nuovo secolo che si sta per aprire, se c'è una speranza di una ricerca che non sia fossilizzata accademicamente, ecco, questo in gran parte credo, questa speranza per me risiede appunto nella presenza femminile e non è retorica questa. Dopo di questo do la parola subito alla professoressa Manzol, che l'anima in gran parte di questo convegno. No.